si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Del fenomeno abbiamo parlato più volte sotto vari aspetti da diverse angolazioni. Ci siamo domandati cosa stia accadendo alle giovani generazioni che ci seguiranno nella nostra avventura terrena, dal momento che sembra che scuole, piazze, strade, luoghi di ritrovo di adolescenti, ma anche ragazzi di età elementare, da scuola elementare, si stiano trasformando in una grande area di combattimento. Sono giorni che si sta insistendo, visto che questo fenomeno ha vari filoni, flussi emotivi, non voglio né sottovalutarlo né scherzare su qualcosa che, ahimè, ha anche vittime e anche atteggiamenti molto cruenti. Però diciamo che in un primo tempo si è cominciato a parlare, almeno nel grande flusso del racconto giornalistico, di bullismo legato alla facoltà, necessità, desiderio di riprodurre attraverso video telefonino alcuni atti di prepotenza, atti di sopraffazione che si consumavano negli edifici scolastici. Andando avanti si è cominciato poi a parlare di episodi più specifici, di violenza di gruppo, di vergognosi atti di libidine violenta nei confronti di compagni di scuola di età ridicola, in cui la nostra generazione di ultracinquantenni ancora veramente aveva come unico orizzonte emotivo quelle dei soldatini di plastica dell'Atlantic. E per finire siamo arrivati a una recrudescenza di questo fenomeno che vedrebbe ragazzi, adolescenti, come rappresentanti di baby gang che siamo abituati a vedere soltanto nei film, con il coltello in tasca, pronto ad affrontarsi in duelli singolar tensione all'arma bianca. Un rito di iniziazione, una prova da superare per entrare nel gruppo. Potrebbe essere questo, secondo gli inquirenti, il motivo che ha spinto tre adolescenti di Viterbo a sottoporre a violenze un loro compagno di scuola, riprendendo la scena con un telefonino. 15 e 17 anni, due ragazzini terribili della Bari Bene che ora dovranno fare pesantemente i conti con la giustizia. I due bulli, sfrontati e violenti, niente scuola ormai da un pezzo, descritti come veri e propri ras della baby movida che anima le notti del centro cittadino, avrebbero esagerato. Seduto, il capo piegato in avanti, mani che con un accendino gli danno fuoco ai capelli. Il maggiore dei tre bulli, 14 anni appena compiuti, è stato arrestato. Ha subito dispetti e soprusi per tutto l'anno, ma è soltanto nell'ultimo giorno di scuola e dopo l'ennesima aggressione che ha trovato il coraggio di dire basta quando le hanno rotto delle uova sulla testa, l'hanno picchiata e graffiata sul viso. È una liceale di 15 anni, la vittima del nuovo episodio di bullismo. Nel branco che l'ha presa di mira, sei coetanee, due delle sei baby bulle, sono state già fermate, dovranno rispondere di lesioni personali. Queste erano una serie di notizie prese da Sky TG24, ma è un elenco che potrebbe durare tantissimo, un elenco che fa pensare e riflettere le persone che ascoltano di quale famiglia, di quale parte della società, di quale porzione di umanità facciano parte questi ragazzi. A me la cosa che già dico in anteprima, ma che mi sembra probabilmente sarà una delle conclusioni più pesanti da trarre alla fine di questa trasmissione, questi ragazzi fanno parte della nostra famiglia, sono l'esito dei nostri comportamenti, non sono alieni, non sono distanti dalle nostre responsabilità e dal nostro modo di essere. 800 24 00 24, questa mattina parliamo di bulli. Minacciare di morte la maestra a soli 7 anni, portarsi da casa dei coltelli da cucina e vantarsi dell'arma con i propri amici per poi sfidare l'insegnante quando lo rimproverati. Giro di vite per gli adolescenti che giocano a fare i gangster e girano con i coltelli in tasca. A chiederlo è il sindaco di Roma, Gianni Alemano, che spinge per pene più dure che possono anche finire con l'arresto se il minore viene colto in flagranza. È ora di ricreazione in una scuola elementare quando 6 ragazzini, tutti di appena 7 anni, giocano a fare i duri nel cortile dell'istituto. Si puntano i coltelli addosso come una vera e propria banda. Imitano i personaggi dei videogames, i cattivi dei cartoni animati. Scoperti dalla maestra di matematica, reagiscono nel peggiore dei modi. Se ti avvicini ammazzo te e pure gli altri, urla uno dei bambini, poi mi uccido. La scoperta agghiacciante avviene quando l'insegnante, rientrata, decide di perquisire gli zaini e gli astucci dei piccoli alunni. Spuntano 10 coltelli da cucina. Con questi, il racconto degli altri ragazzini, costretti dalla baby gang a rubare le lame da casa, pena, botte e insulti. Questa sequenza, naturalmente, ha avuto il suo riverbero, il suo effetto, come si è sempre cercato comunque di trovare un responsabile inanimato, un oggetto che istigasse a emozioni, a comportamenti, come primo responsabile dei comportamenti della nostra progenie, di qualcosa che ci appartiene, qualcosa che non accettiamo di considerare deviante rispetto a una nostra regola di vita, una nostra almeno apparente forma di comportamento, ha fatto sì che ricordate, in una prima fase la responsabilità dei bulli erano i telefonini, i videotelefonini, YouTube, che permetteva di divulgare e rendere epiche le loro malefatte quotidiane a scuola. Poi andando avanti, ma questo è un discorso molto vecchio, molto scontato, sono entrati in gioco i videogame violenti, tutta una serie di associazioni, di genitori, di pubblici difensori della correttezza dei costumi infantili hanno cominciato a fare un elenco di videogiochi, hanno chiesto regole, hanno chiesto delle forme di bloccare la terrificante macchina istigatrice alla violenza e al bullismo. Poi arrivati a questa ultima fase, la dichiarazione del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che oggi ha suscitato polemica nei giornali, all'indomani dell'ultimo episodio di ragazzi che si accoltellavano a Monte Rotondo, è stato arrestato un ragazzo di 16 anni, proprio un episodio di violenza di coltello. Il sindaco di Roma ha accusato una fiction, in particolare il romanzo criminale di Giancarlo De Cataldo, dice sono delle serie televisive che lanciano atteggiamenti, modi di fare sbagliati, inveleniscono il clima. Oggi sulla stampa di Torino risponde abbastanza arrabbiato Giancarlo De Cataldo, dice allora anche i fratelli Grimm, perché hanno scritto Hansel e Gretel, dovrebbero istigare i genitori all'abbandono dei ragazzi. Ma noi, visto che abbiamo già trattato l'argomento sulla narrativa fanciullesca e non quanto sia piena di significati, ossia storicamente infarcita di episodi accaduti, sappiamo qual è il senso delle favole e sappiamo che la fiction può avere il diritto di trattare qualsiasi argomento. Non possiamo mettere i braghettoni anche alle serie poliziesco, alle serie che raccontano o hanno in sottotraccia eventi di cronaca vissuta. Non credo sia un rapporto così diretto fra le coltellate che si danno a scuola e le cose che si vedono al cinema, perché sennò la mia generazione avrebbe dovuto massacrare a colpi di karate tutti i suoi coetanei semplicemente perché non andava a vedere i film di Bruce Lee, o la generazione che è seguita l'ombra della commedia italiana con Edwige Fenech avrebbe dovuto partorire una serie di libertine e libertine che non mi sembrano corrispondere alla tenuta morale che vedo intorno nei miei coetanei. 800 24 0024, cosa ne parlate? Pensate a questo problema? Abbiamo già Elio al telefono. Elio, buongiorno. Elio? Pronto, Elio? Sì. Ecco, adesso la sentiamo. Magari abbassi la radio, spenga la radio e parli soltanto al telefono. Sì. Senta, io purtroppo devo purtroppo dare un brutto colpo alla televisione. Io penso che sia tutta colpa dei mass media, della televisione. Il suo è un punto di vista condiviso da molte persone, io non sono d'accordo. Nel senso che io ho 53 anni, cioè, per mia fortuna tre bimbi piccoli, nonostante la mia età avanzata, io ho un bimbo di 8 anni che purtroppo sta davanti al televisore e vede cose che non ha capito che sono per gioco. Scusi, la parola purtroppo, qualcuno lo costringe a incatenarlo davanti al televisore? No, ma purtroppo è la vita. Purtroppo la vita, scusi. Io 40 anni fa, quando avevo la sua età, 43, stavo in strada, giocavamo fra amici. Adesso purtroppo i bambini, io non me la sento di mandare mio figlio in strada perché è peggio che... Quindi alla fine se c'ha 5 minuti in casa che cosa gli fai fare? Sì, lo puoi far leggere, però il televisore ormai è in ogni stanza. E loro non hanno capito che se danno una coltellata a qualcuno non è per gioco come avviene nel televisore, quello non si alza. Oggi per televisione tu vedi che qualcuno dà una coltellata, sì, quello si alza e scappa. Scusi se mi permetto. Prego. Un bambino di 8 anni non è detto debba vedere per forza gente si dà coltellate in televisione. Esistono programmi dedicati alla sua età, al di là di quelli io porrei un limite. Sono pienamente d'accordo, io mi occupo un po' di televisione per altre cose. ma purtroppo oggi gli spot televisivi, cioè la pubblicità è fatta di questo, cioè oggi pure per pubblicizzare i pannolini certe volte si fanno vedere le persone che si accoltellano, per, cioè, ormai la violenza è in tutto, cioè nel... Purtroppo i bambini poi sono molto più sensibili di noi, rispetto a noi loro vedono delle cose che io non ci arrivo. E questo è il vero problema, cioè oggi non è che c'è bisogno di andare a vedere per forza Matrix. Sì, però guardi, caro amico, poi diciamo, se usciamo un po' di territorio, ho anch'io dei figli piccoli, mi sono occupato di televisione in maniera abbastanza insistente, per 20 anni l'ho guardata per lavoro e l'ho raccontata alla radio perché ho fatto il critico televisivo, quindi so che è molto difficile tenere a bada dei bambini quando si lavora, quando si hanno altri impegni, però sa, lasciarli davanti al televisore in maniera non protetta, quindi non con un adulto vicino che comunque li aiuta a elaborare il messaggio televisivo, e può dire che dalla televisione viene la radice di tutti i mali, è un atteggiamento in sé che non collima con la lucidità. Se lei è convinto che la televisione sia l'origine, la scaturigine prima di tutti gli episodi di violenza, di gran parte gli atteggiamenti violenti, dove porsi il problema, qual è la sua presenza nell'emotività, nella crescita dei suoi figli, perché dovrebbe esserci una preponderanza della parola dei genitori, dell'esempio dei genitori, della guida dei genitori, non una preponderanza della televisione. Poi è chiaro, sono pienamente d'accordo. Capisce? Non è che voglio, io so quanto la vita sia difficile, figuriamoci, ma di fronte a ragazzi che, stando alle cronache, sempre più facilmente ricorrono al coltello, forse il caso è di guardarci un po' anche qual è l'esempio quotidiano, ma non tanto nella sua singola espressione genitore, ma nelle dinamiche della società, quanto il senso di sopraffazione, il senso di violenza, il senso di prepotenza, il senso di essere spacconi per quello che si dimostra di avere e di possedere prevalga. Che poi la televisione sia un grande amplificatore di questi istinti negativi, non glielo nego, ma la televisione ha anche altre cose. Esistono programmi dedicati ai ragazzi, sono interi canali dedicati ai ragazzi. Uno potrebbe fare uno sforzo, prendersi, adesso non voglio fare pubblicità palesi occulte, ma esistono canali dedicati ai ragazzi, uno sa che almeno lì davanti ci sono soltanto cartoni animati, quindi può averne un controllo. Esiste una maniera per controllare lo spettacolo televisivo. Comunque la ringrazio, la saluto e volevo riportare il tema a quello che noi consideriamo veramente l'elemento di crisi. La parola bullismo è una parola che può volere tante cose, vedete, dice, si parla da romanzo criminale in televisione fino ai cattivi esempi in televisione fino alle coltellate che si danno per strada. Siccome è uscito recentemente per Edizioni Maggio il libro Il fenomeno del bullismo di tre autori, Maria Assunta Zanetti, Roberta Renati e Carlo Berrone, abbiamo estrapolato da questo libro, prima di sentire alcuni degli autori, alcune schede, tanto per chiarire il concetto. Il bullismo. Le forme di bullismo assumono caratteristiche diverse a seconda del periodo di sviluppo. Fino alla preadolescenza si riscontrano maggiormente modalità dirette fisiche o verbali e successivamente forme più subdole e psicologicamente più gravi. Sono tre le caratteristiche fondamentali che rendono un atto prevaricatorio come atto di bullismo. L'intenzionalità, perché il bullo vuole nuocere alla sua vittima. La reiterazione. Il bullismo è una prevaricazione che la vittima subisce ripetutamente sempre dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti. Lo squilibrio di potere. Il bullo è dotato di maggiore forza fisica o psicologica rispetto alla vittima. Vedete, stiamo cominciando a entrare nel problema. Parliamo, quando parliamo di bullismo, di un caso specifico. Non parliamo di un atto di spacconaggio, non parliamo soltanto di ragazzi alticci, poi bisognerebbe anche capire perché alticci in età minore di fronte a una discoteca che litigano, non parliamo di risse tra bande organizzate, ma parliamo di qualcosa di sistematico, quotidiano, lancinante, doloroso, che ragazzi perfettamente normali, perfettamente inseriti in famiglie normali, con ottime educazioni, probabilmente anche con tenori di vita e situazioni familiari non necessariamente problematiche, infliggono per una sorta di dinamica di gruppo il loro compagno più debole, che diventa a quel punto il capro espiatorio, diventa il fulcro su cui si articola tutta la volontà di potenza e di esistenza di questi ragazzi. Ma perché questi ragazzi hanno bisogno di affermarsi in maniera così violenta ai danni di una persona più debole? Dove vedono questo schema di vita il cui successo è determinato dalla capacità di schiacciare e annientare il proprio prossimo? Il comportamento di prevaricazione può manifestarsi attraverso diverse modalità: percosse, spintoni, attacchi diretti contro la vittima o verso cose di sua proprietà, insulti, minacce. La vittima è oggetto di esclusione dal gruppo dei pari che il bullo manipola. Professoressa Maria Assunta Zanetti, buongiorno. Buongiorno. È una delle autrici del libro che ho citato, Il fenomeno del bullismo tra prevenzione ed educazione, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Pavia. Io penso che lei dovrebbe aiutarci innanzitutto a centrare il problema, se no noi rischiamo di mettere sul campo tutti i disagi possibili legati all'infanzia, all'adolescenza e non centriamo il problema che ci sta a cuore invece toccare questa mattina. Lei, come vede, il punto comune su cui tutti sono d'accordo è che la colpa sia della televisione, del cinema e dei mezzi di informazione e non ci siano altre responsabilità su un fenomeno che con queste due schede abbiamo sintetizzato, ma lei può anche allargare poi il campo. Sì, innanzitutto vorrei subito chiarire una cosa. Lei ha detto questo fenomeno che interessa l'adolescenza, perché così sembra che il bullismo sia. Ma noi sappiamo dalle ricerche che il fenomeno del bullismo è un fenomeno che quantitativamente decresce nei diversi ordini di scuola, qualitativamente cresce, mi spiego. È più facile trovare episodi di bullismo, di questa quotidianità della prevaricazione nelle scuole primarie, piuttosto che nelle scuole secondarie e secondo grado, cioè le superiori. Tuttavia, a noi che cosa arriva? Arriva appunto il fenomeno che è più eclatante, che è più significativo, perché qualitativamente è più, diciamo i coltelli fanno più notizia che bambini che martirizzano un loro coetaneo. O taglieggiano i ragazzini o fanno le matite. È anche più difficile, secondo me, avendo avuto figli in età scolare, essendo fresco di questa esperienza, che se ne accorgano gli insegnanti, che lo percepiscano i genitori come qualcosa che non rientri nella normale elaborazione dei rapporti. Lasciamoli stare, che tanto così almeno capiscono com'è la vita. E questa è una frase che ci sente dire spesso. Certo, questo è uno dei luoghi comuni che bisognerebbe togliere dal bullismo. Allora, sicuramente voi avete fatto delle schede che hanno inquadrato bene il problema. Diciamo una cosa: il bullismo è un fenomeno relazionale che si verifica soprattutto in un contesto, qual è il contesto della scuola, della classe o dei tragitti casa-scuola, perché un problema grosso, il bullismo è un fenomeno che noi abbiamo all'interno della scuola ma anche attorno ai contesti che caratterizzano la scuola. Cioè delle aree non protette. Tant'è di vero fronte che alla scuola, all'uscita dalla scuola, gli episodi più brutti si vedono quando si vanno a prendere i bambini a scuola, che si vede il bambino a cui prendono i libri, prendono la cartella, prendono la merenda, tutti intorno a uno, in attesa che arrivino i genitori, possono succedere cose terrificanti. Possono succedere nell'intervallo, tant'è vero che le scuole in questi ultimi anni hanno promosso delle azioni di vigilanza fattiva durante l'intervallo. I bagni vengono spesso presidiati dagli assistenti, certo, perché sono quelli i luoghi dove, allentandosi il controllo dell'adulto, si verificano maggiormente questi episodi. Allora, professoressa, noi ci fermiamo soltanto un istante per dare la linea alle informazioni dalla borsa. Nel frattempo pregherei gli ascoltatori di telefonare all'800 24 0024 con questa attenzione. È chiaro che gli episodi di cronaca, di sangue, di coltello e di duelli rusticani che questa mattina sono sui giornali e destano sconcerto, paura e terrore. Però forse è il caso di cogliere il fenomeno sin dalle origini, quando il nostro figlio torna a casa e dice mi prendono sempre la merendina, e sembra una cosa banale, stupida, e tutti noi ci facciamo una risata sopra e diciamo beh, è qualcosa che probabilmente passerà o ti servirà a capire come devi difenderti nella vita, dargli un pugno in faccia e via dicendo. Vediamo se questo è l'atteggiamento giusto. 800 24 0024, stiamo cercando di capire cosa ci sia alle origini, alla radice dei fenomeni, delle storie di coltello, delle prese di posizione, delle colpe collettive, delle colpe del cinema, della fiction, dei videogiochi, dei genitori, della società e via dicendo, a fronte del fenomeno del bullismo nelle scuole e crescendo delle coltellate che si danno agli adolescenti per strada. Sembra da qualche tempo a questa parte, non si vede sui giornali altro che grandi rassegne che sembra il catalogo del postal market delle coltellerie, in cui vengono elencate tutte le forme, i modelli, i coltelli più appetibili ai ragazzi, che non esiste forma migliore poi tra l'altro che invogliarli poi andarseli a comprare. Roberto, buongiorno. Buongiorno, complimenti sempre per la lucidità con cui affronta il tema, soprattutto della televisione. Ah, vabbè, quello. Ho avuto rapporti intimi con la televisione per parecchi decenni, quindi mi viene abbastanza normale. Più o meno per lavoro, per cui insomma. Andiamo al dunque. Il dunque è che, premesso che ho due figli piccoli e quindi che condivido assolutamente la considerazione di prima circa il controllo su quello che i figli guardano in televisione, che è diventata purtroppo la balia o la badante dei figli. Bisogna anche essere realisti, cioè sappiamo tutti che ci sono delle difficoltà oggettive, tutti noi abbiamo bisogno di quella mezz'ora di tranquillità in cui se ne stanno buoni davanti alla televisione, certo, e non ci frantumano le gonadi, siamo tutti più felici, però dobbiamo sapere che questo ha un prezzo, e un prezzo dobbiamo essere pronti a pagare. Esatto, io mi stupisco però, senza assolutamente voler giudicare, però mi stupisco a volte delle reazioni di questi malcapitati genitori che si trovano in casa un illustre sconosciuto, nel senso che il più delle volte questi genitori cadono dalle nuvole continuando a sostenere così che il proprio figlio è un bravo ragazzo, che non ha mai combinato nulla di strano, però sta di fatto che va a scuola col coltello e accoltella le persone. Lei provi, e non so se ha già provato, a avvicinare con gentilezza e cortesia il genitore di un compagno di classe di suo figlio, provargli a dire, ma con estremo tatto, delicatezza, senso di partecipazione, guarda che tuo figlio massacra le scatole al mio in maniera sistematica, vigliacca e violenta, ma non in questa maniera, diglielo, guarda, magari il tuo ragazzo rischia veramente calci e coltellate, o persone cascano dalle nuvole, si mettono a piangere, e ti fanno passare per pazzo, aprono un problema inesauribile. E probabilmente potrebbe accadere la stessa cosa se qualcuno venisse a dirlo a noi. Ci sembrerebbe impossibile che quell'angioletto che abbiamo allevato con cura e con amore possa essere capace di fare in maniera lucida, del tutto gratuita, scientifica e crudele, del male sistematico e quotidiano a un suo simile magari più indifeso. Purtroppo vedo un certo distacco che c'è già di suo generazionale, ma anche proprio dal punto di vista così della vita quotidiana, e quindi troppo spesso si sentono questi genitori che appunto straniti praticamente sostengono la parte di chi non si è mai accorto di nulla. Voglio sperare che non sia una parte che sia consapevole, però è inconsapevole il fatto che possano vivere a fianco di persone giovani che avrebbero bisogno di guide, di controllo, anche se molto discreto, invece appunto non lo si fa, e poi ci si stupisce di avere in casa degli assassini in erba, ecco, detto con tutta la... Grazie Roberto, abbiamo più volte noi approfondito il problema che in realtà in tutti noi alberga l'istinto dell'assassino, perché ci sono vicini di casa tranquilli e domestici pensionati che sono capaci di organizzare una strage della famiglia che fa rumore soltanto al piano di sopra, quindi sappiamo che tutti noi in potenza lo siamo, ma siamo fatti oltre di natura anche di cultura, e dovremmo essere capaci a contenere e conoscere anche questi nostri istinti. Abbiamo al telefono un altro degli autori del libro Fenomeno del bullismo di cui ho parlato, è il professor Carlo Berrone, che è un insegnante di scuola media superiore e appunto coautore di questo libro. Professor Berrone, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ecco, il suo ambito di studio, interesse e professione passa alla fase successiva, quella della media superiore. Sì. Se è accaduto nelle classi elementari e primarie, quello di cui parlavamo con la sua collega e coautrice, cosa accade nella scuola media superiore? Ma io vorrei sottolineare l'emergenza di un fenomeno che noi definiamo cyberbullismo, che è particolarmente rilevante presso gli adolescenti che frequentano le scuole superiori. Il cyberbullismo è una forma di bullismo attuata tramite gli strumenti tecnologici di cui oggi tutti gli adolescenti dispongono, quindi il telefono cellulare e il computer. Tutti noi abbiamo letto casi di cronaca riguardanti persone umiliate, ad esempio tramite la diffusione di filmati su YouTube. Certo. Questa è una forma di cyberbullismo. Ecco, questo è un fenomeno. Anche la vessazione attraverso gli SMS, se prende il telefonino di un ragazzo di scuola media, può vedere che gran parte dei messaggi che gli mandano sono scherzi, facezze, a volte proprio forme di persecuzione. Esatto, tra l'altro dal telefono cellulare non ci si separa mai, quindi la vittima è sempre raggiungibile dal suo persecutore, e quindi non c'è più uno spazio sicuro entro il quale trovare protezione dal cyberbullismo. Allora, ammesso, professore, visto che questa cosa la conosciamo, lo sappiamo, che questa cosa accade, diamo delle formule. A me una volta è capitato vedere mio figlio turbato con il suo telefonino ho preso il telefono, ho fatto il numero che lo trovavo, ho parlato, ha risposto un ragazzo: come passi tuo padre? L'ho terrorizzato chiedendo di passargli il padre. Da quel giorno non è stato più assolutamente infastidito al telefono. Ho capito che sono, una volta a me, una volta a te, forme di vessazione molto frequenti. Ecco, cosa possono fare i genitori, oltre dare un telefono in cellulare in mano ai figli, perché tutti sappiamo che in fondo è importante, per noi ci rassicura saperlo a portata di telefono. Il primo passo è comprendere quanto sia importante per gli adolescenti comunicare tramite questi strumenti. Molti adulti non sono ancora esattamente consapevoli del fatto che internet per i loro figli significa soprattutto comunicazione e non ricerche scolastiche. I nostri adolescenti l'80-90% del tempo speso in internet lo spendono comunicando con persone che trovano in rete. Quindi molti adulti ancora non colgono l'importanza di quello che si chiama social networking per i nostri adolescenti. Sì, è una cosa, sì, sì. Perché molti adulti sono, pronto? Molti adulti sono, dal punto di vista informatico e tecnologico, più analfabeti dei loro figli, sono molto indietro rispetto ai loro figli. Questa discrepanza facilita la sottovalutazione del fenomeno. Quindi io direi soprattutto controllo e consapevolezza dell'importanza di questi strumenti nella vita sociale degli adolescenti. E questo è un argomento molto caro al nostro pubblico. Questa è una trasmissione che si espande in un social network, quindi potrei intrattenerla a lungo anche sulle puerili maniere che hanno molti adulti di gestire la propria privatezza, le proprie relazioni, le proprie emozioni in un social network. Quindi da tali genitori non mi aspetto che comportamenti confusi o improvvisati nei figli. Ma andiamo poi allo specifico, a parte l'aspetto cyber, che mi sembra importante e mi sembra adeguato ai tempi, che richiede però lo stesso tipo di attenzione che richiede l'abbandono davanti alla televisione, o quelle che noi chiamiamo protesi di emozione o protesi emozionali, come appunto il telefonino, il televisore, il computer collegato a una rete di relazioni. Sono strumenti formidabili, ma strumenti che richiedono comunque un'attenzione, una cura, e non possono assolutamente essere lasciati come libero dominio di ragazzi, anche adolescenti. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Io ho sentito, seguo la vostra trasmissione, ho sentito parlare di bullismo a livello di coltelli, magari rubare telefonini. Beh, io non ho subito una cosa del genere. Sarebbe il caso anche usare i termini giusti, usiamoli. A quel punto si tratta di delinquenza minorile, quando uno dà una coltellata non è più un bullo, è un delinquente in erba, è un criminale minorenne. Infatti, più che altro io ho subito, adesso io ho quasi 47 anni, però ho subito il bullismo da bambino, diciamo dalla fine delle elementari alle medie e all'inizio delle superiori. Anche io l'ho subito, pensi? Penso che è difficile trovare nelle biografie di ognuno che non ci sia stato mai un anno, un mese, un anno scolastico in cui non si è dovuto subire. Io anch'io ho subito molto, alle elementari, alle medie, un po' anche al liceo. Poi ho cambiato probabilmente, sono diventato un po' più cattivo. Io forse no, sono sempre rimasto buono, però ho messo portato, penso, anche le conseguenze per diversi anni, perché notavo che comunque ero sempre lo zimbello della scuola, il paese non era grande, le scuole erano sempre quelle, tutti ci si conosceva, nessuno voleva stare con me, ero sempre solo. E anche adesso, in questi anni, che ormai sono già un'età adulta, anche un po' avanzata, però a volte ci penso di quello che magari non ho potuto vivere in quell'epoca. L'importante è che lei adesso ha risolto questo problema, cioè adesso può guardare a faccia alta al suo prossimo e non sentirsi più zimbello. In questo momento io ormai da diversi anni non ho problema di nessuno, per l'amor del cielo. Io sono diventato un libero professionista, ho a che fare con la gente, parlo, mi difendo, sono sempre stato anche a livello fisico anche un gran lottatore, e anche da piccolo. Anche quindi da lei bambino. Fisicamente poteva anche dargliele a questi che la fastidivano? Sì, però non sono mai stato di quel livello, però non è che mi interessava dargliele. A me spiaceva tantissimo il fatto che comunque alla fine mi trovavo sempre da solo, cioè le persone mi conoscevano per quello che ero, anche se io non mi ritenevo meno intelligente di loro, per carità, anzi, però mi trovavo sempre che i bambini non mi volevano, cioè mi stavano alla larga. Ad esempio facevamo una gita, andavamo in gita, c'erano quelli che organizzavano l'ipotesi, non so, una bella picnic con le salsicce eccetera, non mi volevano, no, teniamolo lontano lui, sennò facciamo brutte figure, capisce cosa che... Capisco perfettamente, perché Le dico, sembrerà paradossale perché sono una persona adesso che si espande molto nei mezzi di comunicazione, apparentemente con facilità di parole e relazione, è capitato anche a me in fase della mia vita di sentirmi nel gruppo quello che veniva sempre messo da parte. Capita, accade, l'importante è che non sia una ferita, ci si porta dentro tutta la vita, e l'importante è soprattutto che i nostri figli non diventino esito di questa nostra sofferenza giovanile. Ci stiamo avviando verso la conclusione del nostro punto di vista sul bullismo. Abbiamo visto fenomeno complesso, fenomeno che ha delle punte eclatanti laddove e quando gli organi di informazione sottolineano, assemblano, collazionano episodi correnti, episodi violenti, episodi che hanno sempre dei riferimenti nel nostro immaginario fantastico. Parliamo di baby gang, allucinamo e vediamo concretamente le rassegne dei coltelli che i ragazzi portano in tasca, possiamo attribuire la responsabilità a una fiction televisiva, possiamo fare in modo che gli autori della fiction si difendano, rilanciano la palla. Insomma, mi sembra che è molto facile che molte volte questo problema venga spostato dal campo concreto al campo della realtà, al campo del dolore, della sofferenza, che come molti nostri ascoltatori hanno sottolineato ci si porta dietro anche tutta la vita. Sottovalutare un episodio di bullismo, spero che non sia la peste suina questa cosa che mi sta prendendo in questo momento, ma nel caso ne avrete notizia comunque nei giorni successivi. Molti tendono a sottovalutare il fatto che si inizia da una merendina con insistenza rubata sotto i banchi della scuola elementare e si arriva poi a 45 anni come il nostro ascoltatore che ancora si porta dentro la sofferenza e la ferita per essere considerati l'emarginato del gruppo senza una ragione apparente, senza aver nulla in difetto rispetto agli altri, perché il gruppo si fortifica nella demolizione sistematica costante di un capo espiatorio. Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono la mamma di un ragazzo che è stato vittima di bullismo per un paio d'anni al liceo, al ginnasio esattamente, e nostro figlio non voleva più tornare a scuola, praticamente pregiudicandosi la vita, cioè il suo futuro. È chiaro che tutta la famiglia è andata in crisi, io non riuscivo più ad andare al lavoro, temevo che avesse... praticamente è crollato il nostro mondo. Poi, diciamo, ve ne siete accorti nella fase acuta, perché di solito quando c'è questa reazione il ragazzo già subisce da anni, non è che nasce così. Con una febbre che non passava mai, stava proprio male anche fisicamente, è chiaro, persino ad avere della febbre. Andare a scuola per lui è l'inferno, si rende conto? Era l'inferno finché ha deciso poi, io non torno a scuola. Ovviamente, finalmente siamo riusciti, dopo 2 mesi, a farlo tornare a scuola, cambiando sezione, eccetera. Ma avete parlato con insegnanti? Gli insegnanti non si erano accorti di nulla, il preside ha preso provvedimenti e lui ha cambiato sezione e è stato integrato, ma dopo che noi avevamo evidenziato la cosa, quindi i nuovi insegnanti sensibilizzati hanno fatto in modo che il ragazzo rientrasse. Però è stata un'esperienza assurda perché, ecco, io ho sentito prima l'ascoltatore di prima che è intervenuto, però ecco, no, non è stato pregiudicato il suo futuro, ma vedi ragazzo che ha tutte le capacità per andare avanti. E poi la cosa assurda, i bulli erano figli di laureati. Sì, ma questo abbiamo detto. Non gente incolta. Ma il bullo non è mai un borgataro fondamentalmente, esatto, o se lo è, esatto. Ha sempre comunque l'appoggio, c'è sempre un'elite nella piccola società della classe, della sessione della scuola, che è veramente composta anche di persone che portano sul piatto della loro leadership il fatto che magari hanno un potere d'acquisto superiore agli altri, vestiti più belli degli altri, e anche un lignaggio familiare che li fa sentire superiore agli altri. Maria Assunta Zanetti, l'avevamo interrotta dopo la prima parte, rifacciamo un punto proprio dal punto di vista dell'analisi profonda su questo ragazzo che a un certo punto arriva al momento di rottura, addirittura avere delle febbri psicosomatiche. Arriva il momento di massimo allerta. Partiamo, come ha detto lei, dalla merenda rubata alla classe elementare, arriviamo al liceo, a questi fenomeni di abbandono scolastico per necessità. Sì, ecco, io sono molto contenta che si dia attenzione alle vittime, perché purtroppo parlare di bullismo significa sempre solo individuare l'attore protagonista che mette in atto la prepotenza e sanzionare. Però il lavoro è da fare sulla vittima, il lavoro è da fare sul contesto classe, perché si innalzi la consapevolezza, perché poi, volevo dire una cosa, tutto quello che succede, io sentivo l'ascoltatore di prima, diceva si va in gita e non mi vogliono, cioè questa è la forma dell'esclusione sociale, avviene in mezzo agli altri, tutte le prepotenze, perché ci sia un fenomeno di bullismo, sono prepotenze che avvengono all'interno di un contesto relazionale, dove noi abbiamo degli astanti che con il loro non intervento non fanno nient'altro che rinforzare questo comportamento. Ecco, io vorrei, professoressa, se possibile adesso dare la parola per un istante a Marco Paolo Nigi. Buongiorno. Buongiorno. Segretario generale dello SNALS CONFSAL, che è il sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola. Noi abbiamo aperto questa mattinata con il ministro Gelmini, che ha soltanto lambito questo argomento, che hanno parlato di università. Però mi interessa capire nell'ambito della scuola, visto che abbiamo toccato tutti i possibili vettori, ma toccato in maniera superficiale, per approfondire occorrerebbe ben altro tempo e ben altri strumenti che una trasmissione radiofonica. L'ambito scuola, cosa è stato fatto? Io so che voi siete stati il sindacato che più si è battuto per il famoso voto in condotta, che tanto ha suscitato scandalo, ma mi pare che un primo deterrente abbia funzionato come tale, perlomeno, no? Sì, certamente, non solo il voto in condotta, ma anche il ripristino dei voti in decimi al posto dei giudizi nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. E anche se gli alunni non hanno tutte le sufficienze, in tutte le discipline non ci si può presentare agli esami di maturità. E questo, perché, secondo lei, cominciano ad essere degli strumenti che perlomeno la scuola può prendere di arginamento e di repressione di questo fenomeno? Sì, ecco, la repressione magari è una parola grossa, ma comunque il tentativo è di restituire autorevolezza alla scuola, perché noi riteniamo che il fenomeno del bullismo c'è sempre stato, perché in quell'età giovanile c'è sempre il bullo e c'è sempre la vittima. Se no non me lo ricorderò io, che ho 54 anni, è chiaro. Appunto. Ma perché oggi è così evidente, se ne parla così tanto? Oggi è così evidente perché diciamo si è cambiato. Prima c'era una scuola autorevole, c'era una classe docente che poteva non tanto reprimere, ma essere attenta e intervenire. Oggi non solo diciamo le vittime sono i coetanei, ma diventano anche i docenti le vittime. Vabbè, potrei citarle non so quanti episodi di aggressioni a professori, maestre. Esatto, proprio perché avendo allentato e avendo tolto alla scuola quell'autorevolezza necessaria per un transfer pedagogico, uomini, certamente il bullismo, perché a questo gioca anche, ho sentito in trasmissione parlare giustamente delle vittime, ma parliamo un attimo del bullo. Il bullo nasce in un ambiente dove sicuramente il genitore, in maniera altamente disattrativa, è quello che riprende non tanto l'alunno richiamato dal docente, ma va dal docente davanti all'alunno dicendo: non ti preoccupare, domani vado io a parlare con quel cretino, e lo fa a posto perché tu sei superuomo, superdotato. Quindi mi sembra, in conclusione, Marco Paolo Nigi, che l'attenzione deve essere a 360 gradi. Ho detto, questa mattina abbiamo soltanto sfiorato quelli che sono i punti principali di questo fenomeno, ci torneremo approfondendone uno per uno. È giusta l'attenzione verso i mezzi di comunicazione di massa, è giusta l'attenzione verso l'informazione come andate a questi fenomeni, è giusta l'attenzione per le vittime, è giusta l'attenzione per gli aspetti patologici patologici degli aggressori, giusta attenzione per la scuola, ma soprattutto attenzione massima per quelli che sono in realtà le responsabilità in seno alla famiglia. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.